140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinema Odeon, Milano. L'ora legale. Un paesino invoca il cambiamento, ma il nuovo sindaco onesto chiede onestà e non piace più. Dal 19 in sala Ficarre Picone. Ragazzi, una storia bellissima di onestà, di un paese che sceglie l'onestà, ma poi a un certo punto l'onestà diventa nemica. Com'è venuta l'idea dell'ora legale? Non è che diventa nemica, bisogna fare i conti con l'onestà che hanno tanto invocato e quindi, sai, sempre si entra in un bar e si dice: ah, che politici che ci sono, e qualcuno risponde: però pure noi che li votiamo. E allora qui ci è venuta questa idea, insomma, abbiamo provato a svilupparla. Pensando a cosa? Perché in realtà mano a mano che scrivevate il film le cose succedevano. Certo, abbiamo dovuto cambiare per evitare di essere troppo vicini alla realtà. Ce lo siamo posti il problema. Noi abbiamo avuto questa idea un paio di anni fa, 2 anni fa, subito dopo andiamo a quel paese. Però veramente è stato un volere cercare di capire che cosa sarebbe accaduto, comicamente innanzitutto, facendo piombare la legalità così tanta invocata da tutti. Su un paesino che pensava di essere onesto fino a quel punto. L'immondizia ci sta seppellendo vivi. Perché il traffico, non si può più camminare. Vedrai che questo paese lo aggiustiamo. La gente è stanca e ha voglia di cambiamento, sono tutti con te. Al nuovo sindaco! Cambiare è possibile. Sì! Oggi tutti insieme cominciamo una nuova storia. Però Pierpaolo è stato chiaro, ha detto il progetto deve essere regolare. Vabbè, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare. Tutte me le dovete portare, così facciamo pulizia. Ma tu, permesso per vendere frutta e verdura, chi te l'ha data? Mio padre. E l'euforia dei primi giorni, ma vedrete che Pierpaolo tornerà normale. Anche a noi giustamente ce l'ha raddoppiata l'immondizia. So cornuto! Movimento! Vai con le macchine e azione! Allora, ciao a tutti! Si inizia con allora! No. Inizia con ciao a tutti e benvenuti! Prepariamo a girare, signori, silenzio, grazie! Motore! Tra l'altro, la cronaca, spesso chi scrive, e gli ascoltatori lo sanno ormai che i film vengono scritti molto prima, spesso chi scrive prevede in un certo senso, e il problema dei politici poi si era spostato proprio nei mesi sui sindaci, quindi voi avete individuato proprio quello, non è da poco, eh? Se pensi che abbiamo cominciato a scrivere 2 anni fa, sì. Io ho sentito che avete, tra le altre espressioni, inventato questa documedia. No, non l'abbiamo detto noi, qualcuno... l'ha detto un giornalista. Sì, l'avete fatta giornalista. Vostra? No, perché se tu fai un documentario corri il rischio di essere candidata agli Oscar, per cui preferiamo fare film. No. Democrazia che vuoi che sia, non ti arrabbiare. Signori, sta rovinando un paese! Ma qua l'abbiamo votato tutti, non è che si fa così. Loro ce lo devono dire che questo era onesto veramente. Ci sono tante cose ancora da aggiustare. Più di queste! Ha introdotto la differenziata. Tutti imboscati, vigili urbani, operatori ecologici. Stanno controllando cartellini e presenze degli impiegati. Oh, i tazzini! Ho capito, ma voi a Milano, i tovaglioni sporchi di sugo, dove li buttate? Ma come cazzo è venuto in mente devo da un onesto? Ti scanniamo e mettiamo le budella nell'umido e le ossa nell'indifferenziata. Ma che hai fatto la minaccia ecosostenibile? E ormai c'ho l'abitudine, Salvo. Ora dobbiamo salire sul cavallo per la prima volta nella nostra vita. Ultimo saluto di tutti, ciao! Un film con un sacco di attori, tanti attori siciliani, tanti volti, che conosciamo, tanti nomi che conosciamo, tanti nomi che non conosciamo, ma quando li vediamo diciamo ah, lui. Quindi la Sicilia è ricchissima. Ricchissima, e noi ci siamo sempre divertiti in tutti i film di poter attingere in maniera così facile ad un bacino di attori veramente straordinari. In questo film ci sono almeno 90 ruoli parlanti, cioè oltre noi due ci sono 90 persone che parlano con dei ruoli che abbiamo seguito e che insomma ringraziamo questi grandissimi attori. Ho ancora due cose da chiedervi. Una riguarda il pubblico. Il pubblico che verrà a vedervi sicuramente è un pubblico vastissimo, c'è moltissime sale, però ci sarà il pubblico che vuole ridere, il pubblico che vuole riflettere. Secondo voi come verrà e a quanti livelli verrà capita questa commedia? Allora, il turno delle 4, delle 16:30 è per quelli che vogliono riflettere, il turno delle 18:30 è per quelli che invece vogliono ridere. Per quanto riguarda la sera, dalle 20 e quelli che vogliono riflettere, 22 e quelli che vogliono ridere. Quindi regolatevi, non andate nei turni sbagliati, se no non capite niente. Io li interrogherei quando escono dal cinema per capire cosa hanno, perché è un film che ha tante letture. È un film che ha tante letture. E però allora rivedetevelo più volte, no? Certo. E per quanto riguarda invece, insomma, l'ultima cosa che volevo sapere è quando si esce, non voglio assolutamente dire come finisce, però si ha una certa idea del paese. Voi come siete? Ottimisti o pessimisti? Perché Pietramare è un po' lo specchio della Sicilia e dell'Italia. Certo. Ma noi siamo ottimisti, io fondamentalmente sono ottimista, però era giusto ed era importante vedere anche questo punto di vista. Ottimista anche tu? Assolutamente sì, questa poi non è un film, è una fotografia che noi abbiamo fatto di questo momento, poi già i momenti possono cambiare. A migliorare. Domani è un altro giorno. E si vedrà. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Grazie a voi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Ficarra e Picone. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.